forse conferiva a magari a dire dagli di là anticipati, forse era giusto, Manuel. Sì, Radio Cotuola, Carino Sciaffi anche. Allora, con la mia pensata in sala roba, in tribunca. Sì, io senza niente non abbiamo passato, già mi sai che sono uno di chi si... Tanto uno fa della cosa, ma con più mese fa se contribuito a riso che l'ha fatto. Però, ma chi si fa una cosa che ci preso non fa capo, per cui... Ah, possiamo dire, dai. Vai tu! E allora, bisogna far così. Ciao Claudio! Mi hai sentito? Bisogna far così, bisogna fare. La sali belli e buh. Poi non chiamarli più. Allora lo si manoreggiamo. Se prende te la Claudio. Ciao Matteo Do, buonasera. Ma infatti, io sono di poche parole peggio di voi, Io lo dico una volta solo, mi serve questo, ci vieni e adesso vediamo, dai. Ti faccio sapere, quando uno già mi dice ti faccio sapere. Boh, ciao, arrivederci. Non lo dico più, capito? Perché già c'è questo tentennamento, non è che a me mi piace assai. Quindi, come cose che devo fare, io l'ho chiesto. Sì, vediamo, facciamo, tiriamo, puliggiamo, e beh, sono impegnato, sto facendo un altro lavoro, va bene, ciao, arrivederci, non dico più nulla a nessuno, Giovanni, lo vostro io, e basta, tanto. Quando stai a chiedere agli altri ci sono sempre problemi, Giovanni. Ma infatti già me l'ho fatto, già me l'ho fatto mica la Manuele, mi stava facendo compagnia, per cui me l'ho fatto anche se era un po' azzardato, ma mi sono azzardato a farlo e non era da fare, però mi sono messo e già l'ho fatto, per cui sono tranquillo, ho fatto tutto così. E quelle persone bisogna lasciarle da una parte. Ok, dai. Io vi saluto e sono già alle 8, per cui me ne vado a mangiare. Sentiamo, ciao, ciao, buonanotte. Buonasera. Ciao anche a Tore, saluto le case, a Tore, ci sentiamo, a domani. Ciao Manuele, ci vediamo domani effettivamente, dai. Se prendi tu io chiudo. Ciao. Ciao Giovanni, buona carica, dai, buon tutto. Già ci vediamo domani in caso se sei lì in magazzino. Vai to. Sì, ok. Ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, ok. Se tutto va bene domani. Anda bene. Si prende Claudio. Eia, KK. Ciao Giovanni, buonanotte. Tante cose belle, se coincide a domani, dai. Già ci sentiamo una maniera o nell'altra. Vai Manuel. Eia, ok. Fate l'immaginetto. No, a me non siamo sento. A me quando non mi dai una parola è quella. Io se ti do una parola che alle 3:30, anche prima vengo. Mai in ritardo, anche prima. Ma dico, cazzo, ti dico una parola e dopo non si va da ciappà, che mi dà male un culo, no? Va bene così. Fa domandarsi in prensa, vieni subito, si deve da di là, in prensa, quello sì, quello si viene subito, ma con il salato del telefono ve la data a casa tua. Non sai com'è, ma purtroppo è così, magari pensa che non venga retribuito, pensa che ci siano altri problemi, e allora di brucia, capito? Vai to. Infatti, ed è così, Devo fare così, bisogna fare la sala di biglietto. Cioè, chiede a un altro amico, se tu vuoi fare, tu vuoi fare, se no, te ne manda anche tu paese. Ma non c'ha testa, Otto, non c'ha testa, c'ha 42 anni, ma c'ha la testa di un bambino, ragiona più un bambino che lui, ma lo capo proprio sciuscio, ce l'ha sciolto, ma cosa ti dico di sciuscio? A chi non comprendo una mazza, ma non dico una fanculo cinesio. In particolare, vai qua. Sì, ma cosa un bel, mi viene un bel risaliente mio, ma ce n'è un bel, te l'ho detto, io ti ho fatto il paragone, molti sono così, giusto per parlare, vengo io, te lo faccio io, che problema c'è, ma poi quando un telefono dice, avvieni a fare quella cosa che mi hai detto, no, sono impegnato, sto facendo altro, mi è uscito un travaglio, tutti vanno, le compresi, a chi lo fa se ne va a farsi manni, e a voi non vi venne. Ma è così, ma è così. Io se le voglio fare un favore, se le dico per la Giomaria, sì Giomaria, a tale ora sono lì. Prima ma non tardi, sempre a quell'ora. Ma se c'è qualche problema almeno chiama, guarda, Giomaria non posso venire perché ho avuto dei contrattempi. Certo, ma io non ne comprendo una mazza, luggiamo per 3 mesi, 4 mancomini, boh, ancora felici. Lo chiamo, squilla, squilla, squilla, più di 10 minuti squilla. Va bene, ma mandato un messaggio su WhatsApp. No, io sì, ma non li copre. No, ma mandato un messaggio. E perché sono con la mia ragazza. Ma ti rompi il culo, ha già scritto. Ehi, vabbè, la fettidini, ma vabbè, sarà... sarà fatto così, vuol dire fatto male. Vuol dire la prossima volta non lo chiamate. Ciao Antonio, buonasera, avanti. Ciao a tutti, buonasera per ascoltarti. Questa cosa è importante, esisteva, ora il capo. Voltanti? No, non intendo voltanti io. Stavo aumentando. No, sei tu che sei sognato, Antonio. Andare. Vabbè, dai, io vi saluto, signori. Ci ben sentito tutti quanti. Ciao Claudio, ciao... Emanuele, ciao Antonello, ciao a tutti, statemi bene, buona cena a tutti quanti e ciao agli ascoltoni. Ciao To, ciao, buonanotte, alle prossime, a domani, vai Emanuele. Ciao To, buona cena con tutti, dai, ce la riascoltiamo tutta alle prossime, vai Cla. Va bene, va bene. Beh, Torre, sempre cazzo, sempre questo elicottero c'hai, come mai? Ma non l'hai cambiato l'alimentatore? Aspetta. Dai, ragazzi, stai attenti. Cinese, sto usando, solo che fa un casino. Aspetta che, vabbè, attacco l'alimentatore, là. Ah, sono andato palazzino, faccio prima, che è meglio. Ma perché fa questo casino, Antone? No, oh, io di voce ti capisco bene. È che ti porti appresso questo rumore, ma cos'è? Vabbè, devo avere l'alimentatore cinese. Sei un casino, fuori amari. Vai, Manuel. Allora, sei l'elicottero in casa, il mio Bush. Aspetta, che attacco... Ehi, attacca l'altro, Antone, questo è troppo casino fare. Minchia, ma diventa un elicottero, fuori amari. E te dici tu, che sono rumore che hai detto? Infatti, Manuel, c'ha questo rumore allucinante. No, vabbè, noi siamo vicini, già lo capisco lo stesso, però si porta presso questo rumore. Vabbè, dai, allora poi anche la radio. Io sto usando un altro microfono qua, no, non sto usando quello là di ieri, Sto usando quello, il Dynamic Mic, l'ho pulito e aveva il funzionante. Ma quale stai usando? Quello che ti ha fatto Luca il microfono? No, sto usando l'altro, quello che usavo prima, il Dynamic Mic, quello con la rotellina sopra. C'è un po' più di acuti, c'ha, niente di che. Va benissimo, ma anche quello là, quello che ti ha fatto Luca, va bene. Sì, solo che quello lì devo mettere proprio al minimo, invece questo qua lo tengo a 5 e c'ha più spinta come amplificazione. Adesso con l'altro, bene va, l'elicottero è sparito. Cazzo, così sei un bijou, sei Antonio. No, ma io ti capisco, non è che non ti capivo. Che cazzo, c'è quel rumore allucinante appresso. Sì, lo so, lo fa l'alimentatore. Sei cinese, figurati. Poi quando schiaccia aumenta di più i giri, già lo sai anche tu. Devo controllarmi l'alimentatore, quello che mi ha fatto Toso, Carlo CH. E l'altra volta c'avevo il 19 alternato, non so per cosa. Via che lo controllo a vedere. Sono quel lineare, quello che ho sistemato. E ci metto sopra il tavolo l'alimentatore, così lo guardo. Quello va bene. E invece aumenta, fai come ho fatto io all'alimentatore della cosa, della Proxer. Ho messo un potenziometro dietro con una resistenza, l'ha fatto anche Giulio. e praticamente abbassa i giri della ventola, capito? Non si sente. Se no prima gatto baria un elicottero. Vai Emanuele. No, adesso già, ora già si educa. Antone, ora si è un buon mossi, la modulazione è perfetta. Ma tu? Però. Non ha qualcosa questo apparecchio, Ui ui. Andava bene meno. Grazie, ci hanno fregato questo mese. Ottobre non ritiriamo nulla fino a novembre. Adesso il primo di ottobre devo fare la domanda, dopodiché avrei i soldi se ne parla al 27 di novembre. Antone, ma lo sapevi, l'ha detto anche la televisione. Per il nuovo di quella roba che prendi tu dovevi fare la domanda. È dal 15 settembre al 15 ottobre. Dovevi farla, cazzo. Non si è dimenticato. Che fa il cazzo, si fa dal 1 di ottobre, non dal 15 settembre. Quella è, quello stai dicendo tu, dal 15 settembre. Quello è l'altro, quello da 400 euro e si chiama RM, si chiama. Reddito, hai capito? fa culo. Quello che in pratica dà l'Inps lo stesso, però sempre l'hanno fatto solamente per il mese di ottobre, quello pure che non si sa, per la questione del Covid-19 l'hanno fatto, non c'entra proprio niente con l'inizio di cittadinanza. Se avevo fatto quella domanda lì mi avrebbe votato l'altro, perché o prendi uno o prendi l'altro, no? Ah, così è, non so. Non so, io stavo sentendo, ho sentito un amico che c'ha il cittadinanza e dice che l'hanno pagato, evidentemente lui il rinnovo l'ha fatto. Tu non l'hai fatto e non te ne dà, te ne dà un mese. Vabbè, già ce li hai i soldi, Antonio. Mi se non te li fai dare a Emanuele. Io non te li posso dare. Io non te li posso dare perché i miei sono pochi e li devo gestire. La pressione mia non è reddito di cittadinanza. Vai Emanuele. Sì, la reddito di cittadinanza, tutto l'avario di venire e bugani tutta la capocaria. Cazzo, infatti l'Italia già andando in frantume, andando. Figliani di Napoli che dossi comani, cazzo, senza far nulla, non mangiano più sta vicini per il gioco a pullare, averla in mano. E la provate fatta va già. Cazzo, l'altro giorno ho assistito qua nella piazzetta dei carburanti, proprio una cosa del genere. Proprio una cosa del genere, capito? C'era uno, io stavo uscendo dalla cobba che a fare la spesa, e vedo che domanda in dispiccioli, c'hai due spicci, si girato uno della sede di gas popolare, ha detto ma cazzo ma non ti fa coniegi, figli 700 euro di reddito di cittadinanza ci domandendo di na. E tu hai tolto cosa di una futti, ci voglio un reddito di cittadinanza io, che non lo posso mandare a te, si dirà, capite? Una cosa allucinante, cazzo, beh. Io guarda, sinceramente a questa gente non ne avrei dato, a questi tossicomani. A chi che l'avevi pigliato, l'avevi salvato in cacca in lungo, vuoi soldi, alla cavalli si vuol dire, vuoi mangiare, vuoi vino, cavalli. Chi che va a prendere, questi qua adesso prendo, questi soldi qua, c'è un gatto bene, si consento io, si consento l'altro, si consento la cacura. E lo si ha fatto, mi danno manzano, data ad un negozio, fusati con la birra a mano, salvando che capponcina, vanno, si posano, hai capito? Dalla mattina fino alla sera stanno lì, davanti al negozio, domani di dinà. Ma non si possono spendere, vero Antonio, non si possono spendere al bar il coso rito cittadinanza. Mi sembra che serva per fare la spesa, bollette, queste cose così. Sì, devi fare la spesa, bollette, pagarti la luce, eccetera, eccetera. Capito? Per quello. Però la questione è questa. Allora, quelli che hanno fatto come me la domanda a marzo, si scade adesso, scade. Invece quello che l'hanno fatto aprire, a ottobre ce l'hanno. Però si scade a novembre allora. Loro rimangono a novembre senza neanche una lira, capito? Tutto lì. Poi c'è il reddito d'emergenza, quello che ti avevo parlato io, quello l'hanno ampliato fino a ottobre, un mese in più e lo dà sempre limpidi, lo dà. Però quello, cioè, se prendi una cosa te ne tolgono l'altra, quello è poco ma sicuro. Tipo di, no, già sto bene, non è quello, non è quello il problema, grazie a Dio, che lo sai che un altro ingresso, quindi no, non mi crea nessun problema a me, ma io sto pensando a gente che è disoccupata, che è marito e moglie, che non fanno nulla, e hanno figli, un mese come fanno a campare? Vabbè, cazzo, ma se uno ha questo impegno, queste cose deve seguirle. Cioè, se tu sai che parte da tal mese a tal mese, prima che scala devi fare il rinnovo, devi fare la domanda, è inutile che ti ne ha fatti le balle. A voi è colpa tua, non è colpa del CAF, no? Tu so che le segui queste cose perché me l'hai sempre detto, va bene, però è peggio per loro, si arrangiano. Cioè, ma non è così, è così, non c'è niente da fare. Stanno dando a cani e porci, capite? C'è gente disperata veramente con questo Covid che è entrata in crisi e non piglia manco dei covranchi, assolutamente. Assolutamente, guarda, io fortunatamente anche mia figlia non ha avuto problemi per il lavoro, sì, mi ha fatto la sua quarantena, poi non ho ripreso subito a lavorare, no, non ha perso niente, io non posso lamentare, mia moglie non si è fottuta, però sto dicendo, molta gente non ha preso manco una lira, ecco preso. Ti viene la disperazione, perché come dice Antonello, cazzo, tu pensi a marito e moglie, magari hanno un bambino, non hanno reddito di cittadinanza, nel biliardo che si 400 euro cagati di un REM, reddito emergenza, lo si chiama, del REM, e poi con 400 euro campi di una famiglia. Sì, sì, è già male, sì. Io, no, ma deve cambiare. Deve cambiare qualcosa, perché così non si può, no? Non si può. Io avrei levato tutte queste carte qua, queste carte di merda, che riso, carte di cittadinanza, ma il lavoro, dai lavoro per ogni persona, dai lavoro. Chi si sono disoccupati? Dai lavoro e gli dai la sua busta paga ogni mese. Ma non manco travagli, non il cazzo di caliente, il cazzo fatemi domande, carta qui, carta là, cazzo vanno al coso per il rimborso spese, ma io... L'unica cosa che bisognava fare, sai cos'è? Quei 700 euro o cosa del genere, a posto di darli a me, cioè nel senso, li avrebbe dati a quello che mi assume. Dopodiché quello che mi assume avrebbe aggiunto il resto per l'assicurazione, capito? E lo Stato non avrebbe preso niente per il momento, di tutto lì. Da quel reddito lì in pratica ci avrebbe vissuto tranquillamente una famiglia intera. C'è gente che piglia anche 1200 euro mi deve reddito di cittadinanza, lo sai. Già lo so, ma non funziona così, non va bene così, Antonio. Cazzo, c'è gente che ha lavorato, ti posso dire, 40 anni, ha fatto 40 anni di contributi, cazzo, prende 600-700 euro di pensione, e questi che non hanno mai fatto, si può dire, un cavolo, cazzo, le dai 500-600 a una coppia, cazzo, ho visto che gli hanno dato anche 1000 qualcosa. Aio, ma scherzando stai. Purtroppo è così. Quando c'era il re, per dire, ti davano 600 euro all'Inps. E poi sono stato 4 mesi che non pigliavo nulla, perché ci hanno preso per il culo. E sai quanta gente ci andava lì? C'era un tipo che andava tutte le mattine, si metteva lì e si metteva a chiacchierare, a mettersi a voce. E quella dell'Inps diceva, ma stia zitto, tutti i giorni qui, ma lei cosa ci fa? Lei ancora non ha capito niente, mi avete dato i primi 2 mesi, mi avete dato anche il resto, se no io vengo qui tutto l'anno, gli ha detto. Io non ci posso fare niente, quella, gli ha detto, io sono qua per lavorare, non deve pigliarsela con me, se la pigliarci con l'Inps di Roma, no, io me la piglio con voi, ha detto, perché mi avete accettato la domanda, se no la domanda non la accettavate, perché per accettare, per darti quei soldi lì, dovrebbe avere 58 anni, invece non la gente che in pratica aveva 45, 50 anni, hai capito? Poi hanno dato per 2 o 3 mesi, dopodiché hanno bloccato tutto, non ha dato più niente a nessuno, ma la gente che era sempre piena tutti i giorni. E dove, Antonio? Oh, ma quelli sì, devono cambiare qualcosa, dare lavoro, perché se no più andiamo avanti più diventa più critica la cosa. Vai Clark, io mi stacco che vado a mangiare, dai, casomai ci sentiamo più tardi. Vai Clark. Ehi Emanuele, dai, buona cena, buon tutto alle prossime. No, qua ancora non è pronto, altri 10 minuti. Vai Antonio. Ehi, ciao Emanuele, ci sentiamo alla prossima e buona cena, buon tutto. L'Inps le dava prima, davano il RAI e il RAISE, il RAISE lo dava la regione, andava lì all'Unicredit, in via d'Italia, e ci dovevi andare per forza presso presso, che sono stati un falli tra negri e zingari, è diventato un troiaio, era diventato. Invece il RAI aveva la carta, non faceva altro che andare ogni primo del mese e ti tiravi 600 euro. Usci senza vannuta? Senza vannuta, sì. Donavano a quelli che avevano 58 anni fino ad arrivare alla 65 per dargli la pensione sociale. C'è uno che ha lavorato 40 anni, ma tu immaginate che c'è un amico, una persona che ha lavorato per 40, quello che ho provato io. Quello che c'avevi anche tu, il 7-4. Ti ho detto quello che ho provato io, quello che c'avevo io. Sì, è il suo valore, una bella radio, E quindi l'hanno revisionata e ce l'hanno controllata e la stanno vendendo 700. Sì, ma quello lo fanno pure subito. Io non me ne ero accorto, poi ho fatto lo scatolino in cartone e c'è anche quel filtro a cristallo, adesso non ricordo cos'era, che costa, ho guardato il listino e costa un pacco di soldi, però non ho fatto le voci, cioè, comunque l'ho messo lo scatoletto dentro. Ma il quarzo termostatato? Non esattamente, è un altro filtro interno, non so se sia per la banda laterale o quelle cose lì. Inizio, non lo so qual è, poco costa, io gli avevo fatto mettere, quello e anche quello della M, costa un pacco di soldi. Se consideri un filtro, il filtro del 440 costava 120 euro, quindi... Io questo che ho è completo, c'ha tutti i filtri, e c'è anche la scheda FONEM, tutto, c'è il filtro M, il filtro SSB, il filtro CW, tutti ce li ha. Tu vai a girare dove c'è l'out, e da tutti i filtri. Capito? E nel 430 c'ho il filtro stesso della M, SSB. Però costavano un sacco di soldi, un brevina, quindi mi immagino quello lì, piazza quanto costa. Ma quello che mi ha meravigliato molto è il coso, la valutazione che hanno dato a Revex, come si chiama, che praticamente costa quanto il mio, adesso non ricordo quanto l'ho pagato, il CN, lo conosci il CN801 professionale, serie professionale della DAIFA. E io penso che l'ho pagato una cifra del genere, però da nuovo, mica di seconda mano, quello lì lo stanno vendendo così di seconda mano, forse perché c'è anche la sonda per quelle frequenze altissime. Sicuramente anche la sonda, io ce li ho tutti e due quelli, quello che c'è tu, CN801, capito? Ce l'ho, ed è perfetto, però non lo uso quasi mai perché io ho collegato al 440, al 430 c'ho la T230, capito, che fa da commutatore d'antenna, rosmetro, wattmetro, accordatore, fa tutto, quindi io tengo solo quello io, strumento giusto per qualche riferimento, come stazionario zero, come riferimento, insomma, di linea, ecco, per non stare a attaccare altri strumenti, mentre quelli lì li uso a volte quando faccio qualche prova in V e in U, capito? E va bene. Ehi, non se l'ho detto, Io ho fatto a Elio, glielo puoi anche chiedere. Il valore era 100 euro e non ho battuto il ciglio perché è così. Un Rebex non lo puoi pagare meno di quello. Però io l'ho dato a provare, picchi di modulazione, picchio qui, picchio là, se picchio modulazione. Strumento buono, ti ha dato la T230, non mi ha dato picchio di modulazione. Picchio di modulazione mi dà la radio, è da lì che io guardo quanto sta dando di picco, però, ma i watt sono sempre quelli, sono fissati, so. Sono fissati. Vabbè, comunque, ognuno c'ha la sua fissazione, Gianfranco, intanto ne abbiamo già parlato, non te le storie ripeto. Professionalmente parlando, ce ne sono pochi che capiscono le differenze, quali sono veramente. Va bene, bello bene. Adesso vado a parlare col piatto che ho fame. Già ci sentiamo. Se ci sei, a dopo, altrimenti a domani. Io o sto qua sul 23, sul 10 non c'è mai nessuno, oppure sono in PMR. Ciao, bello bene, ci aggiorniamo. Ok, ciao, buona cena, buona serata. Ci sentiamo alle prossime. Comunque, guardato nuovo, il CN costa 165 da Media Club, quindi come si vuol dire, regge 3 kW anche incrociati, è da 0 a 200, io non mi ricordavo neanche che salisse fino a 200, sempre la serie professionale. Io c'ho anche l'altro, il 901, che è per WHR, comunque, meglio così. Ebbene, ok, ci sentiamo qua, alla prossima. Sì, l'801 fa anche le V, poi il 901 fa anche le U, che l'avevo preso proprio per accordare l'FL 2100 della IAESO, per avere un accordo preciso per esterno, anziché lo strumento suo che non serve a niente, quello è giusto un riferimento, ma poi deve avere lo strumento esterno per fare bene l'accordo, altrimenti bruci il volto. E quindi avevo preso quello lì. Va bene, dai, se hai già cenato la buona digestione, io vado a mangiare un boccone e poi vedo un po'. Se c'è qualcosa in TV va bene, se no me ne ritorno qua, dai. Ciao Gianfranco. Ok, ciao, alle prossime.